questo voto ha ricompattato la maggioranza, non c'è dubbio. Poi sostanzialmente non c'era una fortissima preoccupazione per quanto riguarda una eventuale crisi di governo, certo c'era la necessità di ricompattare un po' il profilo della maggioranza, e, insomma, io considero questo un episodio ormai superato e nel migliore dei modi. Però in molti, insomma, si interrogano allora su quale sia la linea, diciamo, di questo governo per quanto riguarda la giustizia, perché da un lato c'è chi lo accusa di eccessivo giustizialismo, in particolare proprio per la posizione del ministro Bonafede, chi invece appunto di eccessivo garantismo fino al limite dell'impunità. Ecco, ci aiuta a capire qual è la linea? La linea è quella di evitare appunto gli opposti estremismi, no? Tra giustizialismo eccessivo e garantismo eccessivo. Noi abbiamo attraversato una fase, il ministro Bonafede ha attraversato una fase complessa, ieri ha dato giustificazione di quanto è stato fatto, perché è stato accusato di avere avuto un cedimento nei confronti dei boss mafiosi dal procuratore Di Matteo, insomma, e anche questo, insomma, si è dimostrato un discorso delicato e un po' anche difficile da credere, insomma, che è stato portato in televisione. Comunque, diciamo così, Bonafede ha cambiato il capo del DAP con due magistrati antimafia, abbiamo fatto un decreto Cura Italia, abbiamo escluso dai domiciliari i reati di accusati per reati di associazione mafiosa, abbiamo fatto un decreto il 30 aprile per far sì che la concessione dei domiciliari venga data solo dai procuratori antimafia. Stiamo lavorando, insomma, in una direzione di contenimento di quello che è stato definito un nostro cedimento in quella direzione, che è assolutamente falso. L'orientamento è quello di lavorare adesso su due punti importanti, che è portare il CSM fuori dalla logica delle correnti, e quindi il PD, il Partito Democratico, sta proponendo una riforma del CSM, e poi, cioè, ovvio che lavoriamo per una riduzione dei processi a 5-6 anni massimo, insomma, in modo da eliminare il problema della prescrizione. Insomma, da questo punto di vista si sta creando una convergenza anche all'interno del governo, che io penso possa ridurre appunto questo gioco degli opposti, no? Delle posizioni opposte. Dobbiamo veramente ragionare in termini di forma su percorsi concreti e credibili. Quindi, insomma, lei è ottimista sul lavoro che state facendo? Sì, sono ottimista, nel senso che teniamo sempre a riferimento un fatto, che questo è un governo che ha, se no, 7-8 mesi, che ha affrontato nei primi 3 mesi di vita una legge di bilancio drammatica. Appena usciti dalla legge di bilancio abbiamo avuto una pandemia che tutti noi abbiamo davanti e conosciamo bene, e diciamo in questo percorso ci sono degli aspetti molto interessanti di saldatura della coalizione, e ce ne sono però che hanno richiesto tempo. Sulla giustizia, secondo me, ieri si è confermato una convergenza da parte del governo, una tenuta, compreso anche l'area di riferimento di Renzi a questo punto. Quindi, insomma, non è che sono ottimista, sono realista, però con obiettivi ambiziosi davanti, come quelli che si sono del Partito Democratico per la riforma del CSM e una riduzione dei tempi del processo. Questi sono due obiettivi che, se potessimo raggiungerli, sarebbe veramente un fatto molto molto importante e molto concreto. Ecco, lei citava la pandemia, che proprio su questo volevo chiedere, e anche a proposito di giustizia, visto che da più parti vengono segnalati rischi di tensioni sociali in seguito anche alla crisi economica che inevitabilmente in una qualche misura si svilupperà, ecco, come gestirle? Ma guardi, adesso noi stiamo liberando un decreto rilancio di 55 miliardi, siamo stati accusati di aver dato un po' di soldi a tutti, ma noi abbiamo fatto un decreto ombrello che intende sostenere l'attuale società italiana in tutti i settori, in tutti gli ambiti specifici, con coperture anche per persone che non hanno mai avuto coperture prima, come lavoratori autonomi. Certo, siamo consapevoli di ritardi procedurali e burocratici, ma l'intenzione politica è ampia. Chiaro che noi dobbiamo blindare, tutelare, puntellare la società, soprattutto dal punto di vista delle fasce più deboli, e poi dobbiamo assolutamente continuare a fare questo discorso di difesa e soprattutto di focalizzazione delle fasce laddove c'è più sofferenza. Dall'altra parte dobbiamo essere in grado veramente di creare le condizioni per una ripartenza, una crescita, perché comunque noi sfioreremo il 160% del debito pubblico, e secondo me era inevitabile far crescere il debito fino a questo. Su questo tema noi abbiamo bisogno di costruire un patto per il futuro. futuro un patto nazionale, un patto generazionale, perché è vero che stiamo facendo un grande lavoro in Europa, ma quel debito rappresenterà una sfida enorme, quindi abbiamo bisogno di crescere e di tutelare le fasce più a rischio. Io penso che sia una sfida non solamente da affrontare con atti politici, ma una grande sfida culturale che ci impegnerà moltissimo nei prossimi anni.